Buonasera a tutte e a tutte, da parte dello staff della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta e della direttrice, la dottoressa Trevisanna, che non potrà essere presente questa sera. Brevemente vi vorrei ricordare le nostre prossime iniziative. E mercoledì 25 marzo alle ore 18. In collaborazione con il Centro Audiovisivi, sempre qui all'interno del Centro Trevi, ci sarà la presentazione del film Alma Schindler Mahler Werfel, La musa delle quattro arti di Claudio Chianura. E in seguito verrà presentato il libro La sposa del vento di Scilla Bonfiglioli. Martedì 31 marzo, invece, alle ore 17:30, parleremo di Marx e presenteremo un saggio intitolato Marx per Lacan, vocabolario di economia libidica. Saranno presenti i due curatori dell'edizione italiana, Mauro Milanaccio e Lorenzo Curti. Vi ricordo anche che il 1 aprile, sempre di mercoledì, e sempre alle 17 partirà il nostro nuovo progetto Stregami, un gruppo di lettura dedicato ai romanzi che hanno partecipato o vinto il premio Strega negli ultimi anni. E ci troveremo qui in biblioteca e per un'oretta dialogheremo appunto del romanzo vincitore del premio l'anno scorso, ovvero l'anniversario di Andrea Baiani. Siete tutte e tutti invitati. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere qui presente Sepp Mal, romanziere e poeta, e insieme ai curatori e traduttori del suo ultimo libro di poesie intitolato Lo stato delle cose. È la prima raccolta tradotta in lingua italiana. E io saluto anche voi e vi lascio la parola. Grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutte e a tutti, io mi chiamo Stefano Zangrando, mi definisco per comodità un mediatore di letteratura, nel senso che mi occupo di letteratura sia traducendola che recensendola o studiandola o insegnandola o scrivendola quando capita. Ed è in questa veste che vi parlo oggi, anche se siamo entrambi, anzi tutti e tre le persone che vedete sono coinvolte nella pubblicazione che vi presentiamo e che è questa. La cornice è raccolta, molto bella, però mi piace pensare, io credo che sia un piccolo avvenimento storico quello di oggi, perché Sepp Mal è probabilmente il maggiore autore su tirolese dei nostri infausti giorni, scusa l'infausti, ma insomma fuori tira un'aria che non è delle migliori, e quindi averlo qui in una biblioteca dedicata alla comunità di lingua italiana per presentare, magari non i romanzi, è già vero che Sonia Sulzer, che siede accanto a me, che è la traduttrice di lungo corso di Sepp Mal, ha già tradotto due romanzi, uno dei quali ho saputo poco fa, è stato letto anche dal gruppo di lettura della biblioteca l'anno scorso, che è Ai margini della ferita. Al di là di questo, oggi presentiamo un'antologia di poesie, non un libro di poesie tradotto pari pari, ma una raccolta, una scelta tra tutta l'opera poetica di Sepp Mal. Cioè, tra tutte le poesie che ha scritto e pubblicato tra il 1992 e il 2020. Come diremo fra poco, Sepp Mal è forse innanzitutto un poeta, forse ce lo dirà lui. Ma prima di arrivare lì, ecco, mi piace di nuovo sottolineare l'importanza di questo incontro. È la prima presentazione vera e propria che facciamo a Bolzano. L'abbiamo presentato a Rovigo, nella città dell'editore, la primavera scorsa. E poi abbiamo fatto una lettura nella cornice del Lesefest della Südtiroler Autorenvereinigung, di cui Sepp Mal è membro fondatore e di cui anche noi, anche tu sei membro, non ancora, poco ci manca. Però è la prima volta, a Merano, naturalmente a casa, a casa vostra, direi, insomma, sì, certo, anzi musicata quella addirittura, no? Però ecco, a Bolzano è la prima volta, quindi ci teniamo particolarmente. Abbiamo dovuto aspettare un po' perché, insomma, abbiamo scelto una data vicina alla giornata mondiale della poesia, anche se l'abbiamo concordata ormai qualche mese fa, che è il 21 marzo. Ecco, voglio leggervi brevemente una frase dalla prefazione, che è firmata dallo stesso autore. Prima di presentarvi questa raccolta e come è nata. Quando gli è stato chiesto di redigere una breve prefazione per il libro alla fine di tutto il lavoro, Sepmalt ha scritto una pagina e mezza e all'inizio del secondo capoverso si legge questo: per un autore italiano di madrelingua tedesca, non c'è nulla di più auspicabile che veder tradotte le proprie opere nella lingua del paese di cui è cittadino. Anche se non è affatto scontato che ciò accada. Ora, questo è molto bello ed è tutt'altro che scontato. Non so se alcuni autori considerati padri della letteratura cosiddetta sudtirolese, a me il confinamento territoriale sta un po' stretto, però diciamo, non so se Franz Tümmler sarebbe stato in grado di definirsi autore italiano di madrelingua tedesca, ma nemmeno forse Josef Zoderer. Forse già di più altri autori e autrici della generazione di Sepmal, al quale, tra l'altro, permettimi di ricordarlo, non si dice l'età, anzi, a Sepmal è stato dedicato nello scorso weekend un intero convegno in occasione dei suoi 70 anni che si è tenuto tra Innsbruck e Curon in Alta Benosta, che è il suo paese d'origine. E quindi siamo nella cornice quasi di una celebrazione, in ogni caso di un jubileum, e quindi molti auguri e congratulazioni. Ecco, questo senso di duplice appartenenza, autore italiano di madrelingua tedesca, no? È indizio di qualcosa che è successo negli ultimi decenni alla scena letteraria locale, che credetemi, ve lo dico da bolzanino trapiantato in Trentino, è davvero molto viva e molto collaborativa, come poche ce ne sono nelle altre, o comunque quello che c'è nelle altre province d'Italia, forse anche dell'Austria, è un po' diverso da quello che c'è da noi. L'Unione Autrici e Autori Sud Tirolo, appunto, la SAV, è tra gli attori che hanno contribuito a creare questo crossover, questa intersezione tra le comunità che permette oggi a un autore come Sepmal di definirsi così. E quindi, insomma, è qui che lo collochiamo. Lo collochiamo in un percorso che è un percorso di riconoscimento reciproco. Un autore che oggi ha, come posso dire, la self-confidence, ma altrettanto la serenità e la voglia di definirsi autore italiano di madrelingua tedesca e del quale esce una raccolta di poesie tradotta e curata in lingua italiana. È un fatto importante. E rispetto a questo, io vorrei farti la prima domanda, prima di passare la parola a Sonia. Mi piacerebbe capire che cos'è stata per te la poesia o che cos'è la poesia rispetto alla prosa e come hai vissuto questo trasferimento, al di là del piacere magari o della contentezza di vederti tradotto, come hai vissuto il momento della presenza, dell'esserci, no? Anche nell'altra tua lingua, come posso dire, del tuo paese, insomma. Beh, io sono. Adesso hai detto che ho 70 anni, ho incominciato a scrivere delle poesie a 20 anni all'incirca. Sono stato ad Innsbruck come studente di germanistica, sì, ho studiato lì. Sono stato abbastanza solitario in quel tempo. Ho cominciato a scrivere delle poesie, proprio questo è stato anche a leggere delle poesie. La poesia è proprio una cosa come il primo amore per me. Poi, quando voi o tu hai proposto di tradurre le mie poesie, Non so, è stata una cosa molto importante per me. Non soltanto perché, come mi hai citato, perché ero abbastanza fiero che le mie parole uscissero in italiano, ma anche per altre ragioni, proprio perché non si traducono molte poesie, credo, né in Italia, né in Austria, né in Germania. Proprio questo è stato molto, molto importante per me. Proprio ho confidato proprio nella vostra competenza con Sonia. Hai detto che Sonia ha tradotto abbastanza, o quasi tutto, dalle mie opere, i romanzi, eccetera, eccetera. Questa è stata poi la prima volta che vi siete messi insieme a tradurre le poesie. Poi era molto curioso, sì, come poi le poesie, i versi, come vengono in italiano. Non ricordo più la prima poesia che Sonia mi ha poi trasmesso, mi ha poi mandato per email, ma ero, non so, è successa una cosa particolare, ero felicissimo di leggere questa cosa che è venuto fuori dalla mia testa tanti anni fa, e poi mi è venuto incontro in un, non so come dire, in un altro vestito, ma era tutto riconoscibile, tutto bello come era in tedesco. Questo... Molto bello. Molto bello, sì. Non poi so se mi sono spiegato. Ti sei spiegato molto bene e hai detto anche una cosa importante, è vero, non viene tradotta molta poesia e non viene nemmeno letta, se vogliamo, e questo fa onore anche ai presenti che sono venuti per ascoltare la presentazione di un libro di poesia. La poesia è davvero un po' una cenerentola, no? Ai giorni nostri, eppure è lì, no? che il linguaggio letterario trova la sua massima espressione. E con Sonia credo siamo d'accordo nel ritenere che è lì che la traduzione letteraria trovi il suo massimo senso, o comunque il non plus ultra della sua funzione. Perché sapete, fare una traduzione referenziale di un testo non letterario è una cosa, tradurre un romanzo è un'altra, tradurre poesia è una cosa ancora diversa, insomma, quella che una volta che Jacobson chiamava la funzione poetica del linguaggio, qui trova veramente la sua espressione più concentrata. Ecco, Sonia, io vorrei, naturalmente è una cosa che è nota anche a me, però mi piacerebbe che tu raccontassi, anche per capire come avvengono queste cose, queste mediazioni. Noi non siamo delle vedette, siamo un autore e due traduttrici ori che lavorano ai confini dell'impero, potremmo dire. Quindi non lavoriamo attraverso agenti, grandi imprese editoriali, ci muoviamo sul territorio, no? E quindi anche arrivare a proporre, come in questo caso, un editore di Rovigo, piuttosto noto, che ha già pubblicato autori e autrici del nostro territorio, a realizzare una cosa del genere, è bello, credo, anche per voi che ascoltate, capire come succede, come avviene. Quindi ti sarei grato se, prima di arrivare alle poesie vere e proprie, cominciare a dare un assaggio, ci raccontassi un po' la storia di questo libro. Ebbene, la storia di questo libro, che tu conosci benissimo, vorrei dire anch'io innanzitutto che è tutt'altro che scontato tradurre prosa, e ancora più arduo e meno scontato tradurre poesia. Non sono gli editori, o non c'è un personaggio esterno che propone il progetto ai traduttori, ma sono i traduttori che si fanno che ha, ideatori, e che hanno, in questo caso è stato Stefano ad aver avuto l'idea iniziale, e dopo una serata a Lana dedicata alla letteratura, eravamo noi tre e Stefano ebbe l'idea. La buttò lì proprio come, ma se andassimo a farci una pizza, disse, ma e se traducessimo le poesie di Sepp? E si siccome io ci avevo già pensato, chiaramente dopo aver tradotto due racconti lunghi. Hai già tradotto forse anche qualche poesia, no? Privatamente, è certo che l'avevo fatto, ma proprio come esercizio mio privato. Però appunto dicevo, dopo aver tradotto due racconti lunghi e due romanzi, la curiosità, la sfida, sentivo queste poesie che mi chiamavano, però devo ammettere che se non ci fosse stata la tua suggestione, la tua, il tuo impulso, forse da sola non me la sarei sentita. Neanch'io, se ti posso. Ecco. E da lì infatti è iniziato questo sodalizio. Vi posso anche raccontare come abbiamo lavorato, che è una cosa che tra l'altro ci chiedono spesso, perché tradurre a quattro mani è una questione anche di metodo, un metodo che non abbiamo concepito a priori, ma che si è profilato via via. Abbiamo iniziato traducendo alcune poesie le stesse, sia io che Stefano, e poi le abbiamo confrontate e poco a poco abbiamo come trovato una voce comune, abbiamo come, come si fa con gli strumenti musicali, ci siamo accordati, sintonizzati. E poi ci siamo suddivisi il lavoro e poi abbiamo condiviso le poesie che a mano traducevamo individualmente e una volta ero io che mi rendevo conto di un aspetto che tu forse avevi trascurato, tralasciato, spesso eri tu che trovavi mezzi espressivi più consoni, insomma ci siamo integrati benissimo, davvero siamo diventati una voce sola alla fine. C'è da dire che tutto questo che pare, no, una sintesi, in realtà è avvenuto per lo più online. Ah, sì. Cioè è avvenuto per lo più in incontri da remoto. E quindi le nostre sedute di lavoro sono state dal computer, no? Sì, noi dal computer, facevamo lunghe sedute al telefono, al computer, e quindi di fatto abbiamo lavorato così, insomma, quindi in questo modo che dici tu. Senti, io però, sì, forse volevi finire, sì. Se no io... Volevi sapere la differenza. No, io spingo, no, per ascoltarvi. No, che differenza? No, mi avevi chiesto quale fosse per me la differenza tra il tradurre prosa e poesia? Giusto? Mi hai un po' letto nel pensiero, eh? Ah, scusa. No, mi sembrava fosse quella, sì, l'intenzione. No, però sì, in effetti mi piacerebbe capire come tu hai vissuto il passaggio. Ma devo dire che è stato molto naturale, perché la prosa di Sepp preannuncia o racchiude il suo... la tensione verso la poesia, la si riscontra, la si incontra nella prosa. Ci sono momenti di altissima poesia nella prosa. E quindi sì, è stato preparatorio come aver tradotto due racconti lunghi e due romanzi. E in questo senso conoscevo il linguaggio, le immagini, poi le avevo lette, ecco, sì, le avevo lette e ho ritrovato come l'essenza, quello che chiaramente nella prosa è raccontato in modo più articolato e dettagliato. Certo. Nella poesia c'è la sintesi, l'essenza. Sì, è vero, sai che sono d'accordo con te, lo dico per chi ci ascolta, forse anche per chi ha letto Immagini della ferita. Quello di Sepp Mal è uno sguardo tendenzialmente poetico sul reale e sull'umano, per cui anche nei romanzi c'è questa grande forza, questa capacità di empatizzare con le creature più fragili, sia che si tratti di adolescenti o di ragazzini, o semplicemente con la pena del vivere, insomma. In Sepp Mal c'è questa dote di romanziere, perché la dote dell'empatia è una dote da romanziere, è vero che però appunto nel modo che ha di restituire i dettagli o di restituirsi in dettaglio ha a che fare evidentemente con uno sguardo poetico. In cui la nostra idea era portiamo al pubblico di lingua italiana l'origine dello sguardo poetico di Sepp Mal, no? Perché lì nasce, ce l'ha detto anche lui, si è cominciato ventenne e quello sguardo nasce lì e penso prosegua lì, poi magari ce lo dirai se stai lavorando ad altre cose. Ed è uno sguardo sempre estremamente delicato, sempre estremamente in punta di penna, ecco, un po' come anche nei romanzi. Io però vi pregherei adesso, proprio per iniziare a dare un assaggio, certo, non è facile fruire di poesia una prima volta, ascoltare una prima e unica volta un componimento, no? Però l'invito è proprio all'ascolto, la poesia è anche suono, nasce appunto dalla musa della musica, insomma. E quindi vi fanno sentire Seppe e Sonia una serie di componimenti tratti da questo libro che appunto è composto da una scelta di 41 componimenti che Sepp Mal stesso ha scelto di far tradurre, nel senso che noi gli abbiamo detto: Sepp, senti, sei tu il maggior conoscitore della tua poesia. Secondo te, qual è? Tracciaci una raccolta che secondo te è adatta a parlare al pubblico italiano. Lui avrà pensato, ma che pigri questi curatori, non si prendono nemmeno la briga di scegliere loro le poesie, loro che il pubblico italiano lo conoscono meglio di me. Beh, è un po' stato così, eh? Però c'è rispetto. No, scherzo. Ci piaceva, è bello, perché comunque è un libro nuovo e quindi nella misura in cui un autore sceglie le proprie poesie, dà forma a un nuovo libro, dà forma a un nuovo organismo. E questo ovviamente i curatori non lo possono fare. Ok? E se. Sì, quindi sono 41 poesie Ah sì, scelte tra 41. 231 che ha Sì, scritto Sepp. esatto, tra molte, quindi. Sono quattro raccolte e come diceva Stefano, Sepp le ha scelte. L'ordine che ha seguito poi l'editore è quello in cui sono apparse nelle varie raccolte tedesche, Läufer im Park. Landschaft mit Tieren unter Sträuchern hingeduckt, Holz und Haut und Wo ist dein Haus? Scritte tra il 92 e il 2020, giusto? E le abbiamo lasciate appunto nell'ordine in cui sono apparse nelle raccolte originali. Ora ve ne leggeremo alcune. Prima in tedesco, poi in italiano, e poi forse il contrario. Proporrei proprio di leggere, forse cambiamo prima in italiano Va e poi in bene? tedesco e poi suggerisco di ripeterlo in italiano, così si capisce Ma meglio. così siamo qui fino a domani Si può fare? Sì, Perché no? come no? E allora iniziamo con. Proprio con la prima poesia. Deines und meines Vaters Augen, gli occhi di tuo e di mio padre. Gli occhi miei non vedono senza occhiali. Gli occhi di tuo e di mio padre. Le loro mani ovunque, negli attrezzi consunti. Le impugnature delle scuri, dei badili, anche là, dove non arrivarono mai, nei boschi, nel legno di alberi spezzati, in tutto ciò che decade. Anche nella pietra, nei muri che si sbriciolano, le linee intrecciate dei palmi, nei manici dei secchi del carbone. A lungo questo resterà, nella quiete degli inverni, i loro occhi. Deines und meines Vaters Augen. Überall ihre Hände, in den abgegriffenen Geräten, den Stielen der Äxte, der Schaufeln, auch da, wo sie nie hinkamen, in den Wäldern, im Holz zersplitterter Bäume, in allem, was zerfällt. Im Stein auch, im bröckelnden Mauerwerk, die verschlungenen Linien der Handteller in den Griffen der Kohleneimer. Das wird lange bleiben, in der Ruhe der Winter, ihre Augen. Gli occhi di tuo e di mio padre. Le loro mani ovunque, negli attrezzi consunti, le impugnature delle scuri, dei badili, anche là dove non arrivarono mai, nei boschi, nel legno, di alberi spezzati, in tutto ciò che decade. Anche nella pietra, nei muri che si sbriciolano, le linee intrecciate dei palmi, nei manici dei secchi del carbone. A lungo questo resterà, nella quiete degli inverni, i loro occhi. Sai che io spesso lo faccio così, di leggere una poesia due volte. Prima aveva un po' di paura, poi la gente che ascoltava mi ha detto sì, è meglio così, che si capisce, per la seconda volta si capisce di più. Scelgo io? Sì. Una poesia che parla del paesaggio da dove vengo. 40. Mm-hmm. Senza titolo. Wo ich herkomme, ist der Winter keine Jahreszeit, sondern ein Zustand. Die im Speichel festgefrorenen Zungen lösen sich einmal im Jahr. Wie soll ich erklären, was mir ein Wort bedeutet wie Frühling? Die Tiere, die über die Erde ziehen und sterben ohne Laut, stehen uns am nächsten. Und die Dinge, unverrückbar in ihrem Schweigen, singen dein Lied. Senza titolo. Lì, da dove vengo, l'inverno non è una stagione, ma uno stato. Le lingue raggelate nella saliva si sciolgono una volta l'anno. Come posso spiegare che cos'è per me una parola come primavera? Gli animali che avanzano sopra la terra e muoiono, senza un verso, sono ciò che a noi è più vicino. E le cose inamovibili, nel loro silenzio, cantano la tua canzone. Sì. Facciamo il prossimo, la prossima poesia, che si intitola House Nummer 51, 116. La vecchia casa dove sono nato e cresciuto. House Nummer 51. Es ist nur die Katze geblieben. Sie streift durch die Zimmer im leeren Haus. Wenn ich sie rufe, streckt sie sich, gähnt und zeigt ihre Krallen. Ich stell ihr Milch hin in deiner Untertasse. Aber schon ist sie wieder auf dem Fensterbrett. In der Küche drückt ihren Rücken ans Glas. Das grau-schwarz schimmernde Fell, da, wo man auf die Straße sieht. Civico 51. È rimasto solamente il gatto. Vaga per le stanze nella casa vuota. Quando lo chiamo si stira, sbadiglia e mostra gli artigli. Gli metto del latte nel tuo piattino sotto tazza. Ma ecco che è già di nuovo sul davanzale. In cucina preme il dorso contro il vetro, il pelo grigio-nero scintillante. Lì da dove si vede la strada. Und jetzt darf ich aussuchen? Ora la poesia Lo stato delle cose, Stand der Dinge, il titolo alla raccolta. Pagina 45. Lo stato delle cose. Io non imparerò mai a parlare al microfono. Continuo a muovermi. Ah, salta, pensavo di essere io che muovo la mano inavvertitamente. Ancora resto qui, nella stanza che il suo cuore nasconde. Pronuncio i nomi degli oggetti, ninnoli, fiore, come fossero miei. Non ho smesso di portare con me, su per i gradini degli anni, le parole dell'infanzia, segnali luminosi, bagaglio leggero, in una casa che imperturbata da tutte le finestre respira. Una poesia, secondo me, che parla della mia, si può dire, poetica, modo di comporre. Stand der Dinge. Noch bleib ich hier, im Zimmer, das ein Herz verbirgt. Nenne die Namen der Gegenstände, Bettel, Blume, als gehörten sie mir. Immer noch trage ich Wörter herauf aus der Kindheit, über die Stufen der Jahre, Leuchtzeichen, leichtes Gepäck, in ein Haus, das unbeirrt durch alle Fenster atmet. Ed ora, prima direi, prima di passare alla, non so, domande eventualmente tue, poi del pubblico alla fine, se ce ne sono, vorrei leggere la poesia che, la prima poesia che io mi cimentai a tradurre, ed è una poesia particolare, perché credo che Sepp l'abbia scritta in un momento particolare e poi tu me la segnalasti anche in un mio momento particolare. E sì, a pagina 101, e si intitola Nell'immensità. Amara. E poi all'improvviso, in mezzo al buio della notte di gennaio, neve, un respiro da molto lontano, su in alto, e tutto ora appartiene ai fiocchi. La siepe di ligustro in giardino, l'aprirsi delle braccia, il prato inglese del vicino, e più oltre gli alberi, tetti, case. Come avrei voluto mostrarti alla finestra, sussurrando la luce tenue che entra nella stanza, parlando del domani, dei giorni che verranno. C'è una specie di sottotitolo qua che dice Für Mara. Questa poesia è dedicata a mia figlia, che purtroppo non c'è più. Ins Weite. Und plötzlich dann, mitten im Dunkel der Jännernacht, Schnee, ein Atemholen von ganz weit oben. Und alles gehört jetzt den Flocken, die Ligusterhecke im Garten, das Öffnen der Arme, der englische Rasen des Nachbarn und dahinter die Bäume, die Dachflächen, Häuser. Wie gern hätte ich dir das noch gezeigt. Flüsternd am Fenster, dieses milde Licht, das ins Zimmer dringt und von morgen spricht, von kommenden Tagen. Sì, e Sepp mi segnalò questa poesia quando io persi mio fratello qualche anno fa, e quindi anche per me questa poesia racchiude sì, malinconia, certo, però espressa in un modo così delicato, intimo, e che dà conforto comunque. Nell'immensità amara. E poi all'improvviso, in mezzo al buio della notte di gennaio, neve. Un respiro da molto lontano, su in alto, e tutto ora appartiene ai fiocchi. La siepe di ligustro in giardino, l'aprirsi delle braccia, il prato inglese del vicino e più oltre gli alberi, tetti, case. Come avrei voluto mostrarti alla finestra, sussurrando la luce tenue che entra nella stanza parlando del domani, dei giorni che verranno. Io vi ringrazio e beh, avete sentito, no? Allora, la poesia di Sepmal anzitutto è una poesia comprensibile, c'è tutta una poesia contemporanea, anche sperimentale, che non è esattamente alla portata di noi lettori, come dire, che leggiamo anche prosa o che comunque non siamo magari portati per affondare troppo in certi meandri del linguaggio. E nella tua poesia, Sep, è fortissimo, cioè si sente questa attenzione, no? Anzitutto sembra scavata in un silenzio raccolto. È una parola molto rispettosa del silenzio in cui nasce, a me sembra, e che non pretende mai di prevaricarlo, no? Per cui viene dal silenzio e poi torna lì, con molta delicatezza. E è una poesia che si confronta molto con tutto ciò che decade, che passa, che finisce, ma anche con ciò che può durare, che può restare, anzi mi sembra a volte che si leghi molto a ciò che può restare proprio per combattere ciò che passa e che decade. Al tempo stesso non è solo una poesia sul tempo, è una poesia dello spazio, ci sono tantissimi gli spazi naturali delle tue origini, gli animali, la vegetazione, le tracce umane, più le tracce umane delle persone in sé. Delle persone restano quasi le ombre, no? Delle allusioni spettrali. E ecco, in questo senso vorrei chiederti che cosa... Tu prima hai detto, ho cominciato, è stato il mio primo amore, abbiamo avuto un saggio, ma che funzione ha per te la poesia? Se ne ha una in particolare o se invece segui, come dire, un fiuto istintivo? Visto che comunque queste cose emergono, no? questa volontà di restituire, forse anche un po' di salvare dal corso del tempo. Caro Stefano, il poeta non sa tutto, non sa spiegare tutto, ma provo a dirtelo, ma lo faccio in tedesco e ti prego di tradurre. Im Grunde, ich sage das jetzt auch auf Deutsch, ist es wirklich schwer zu erklären, wie man an so ein, oder wie ich an dieses an Gedichte herangehe. Es ist meistens erstens von der Verfahrensweise ein sehr langsames Arbeiten. Es geht oft Zeile für Zeile oder Wort für Wort. Und ein Gedicht dauert manchmal zwei, drei Wochen, bis so ein Text fertig ist. Das Wiederlesen und wieder ändern und wiederlesen. Und es setzt sich schon zusammen aus Eindrücken. Ich mag das sehr gerne, Eindrücke, Bilder neben Bilder zu setzen. Und habe das Gefühl, dass diese einzelnen Bilder in den Gedichten miteinander kommunizieren müssen. Und die Art und Weise, wie sie kommunizieren, das macht das Gedicht eigentlich aus. Ja, es sind, wie gesagt, es wird zu viel. Zu viel. So viel kann ich mir nicht mehr. Du brauchst es? Okay. Ich übersetze, ja, klar. Oder? Entschuldigung. Ecco, non è facile dire quale sia il mio approccio quando creo una poesia. Talvolta ci vogliono settimane prima di... in cui appunto creo la poesia, ha luogo il processo creativo e mi piace abbinare immagini e und ich habe bestimmt was vergessen, oder? Vai pure, se no ti correggo. Ok, e mi piace abbinare immagini e creare suggestioni ed è importante per me, und dann habe ich dich unterbrochen. Il lavoro tuo poi è quello di cercare questo tipo di accostamento, no? Se ho capito bene, sì. Cambia la sua guess. Vero, è vero, è vero. Poi, questo è interessante perché non ti avevo mai sentito dirlo, quindi adesso vorrei, meno male che lo stiamo registrando perché così lo mettiamo agli atti, una piccola dichiarazione di poetica. Wolltest du was noch hinzufügen? Was noch sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich der Rhythmus. Der Rhythmus der einzelnen Zeilen. Und ich denke mir, das ist jetzt eine Bemerkung zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Das ist etwas vom Schwierigsten, denke ich mir, jetzt auch beim Übersetzen. Ja? Und das ist euch ganz wunderbar gelungen, den Rhythmus dieser Zeilen, dieser Gedichte beizubehalten. Und das merke ich. Ich merke das, wenn du liest. Ich merke das, wenn du liest, Stefano. Und ich merke das, wenn ich das lese, wie das zusammengeht. Also ich denke, es geht ja nicht so sehr, natürlich auch um die Contenuti, um die Inhalte, sondern es geht vielmehr um Lautliches, um Rhythmus und so weiter. Das, ich denke, das ist das Schwierige auch, wenn man Lyrik, wenn man Poesie übersetzt. Quindi sì, questo accostamento di immagini che arrivano alla mente, e poi un altro aspetto importante è il ritmo, ed è quello che anche noi traduttori chiaramente dobbiamo cogliere. E che Sepp dice ritrova nelle traduzioni il ritmo, che non è la metrica, perché in realtà i versi sono liberi, questo scusa lo aggiungo io, però è proprio oltre a un'atmosfera, quindi le immagini alle quali tu facevi riferimento, e il ritmo che si trova talvolta proprio invertendo l'ordine, giusto Stefano, nel verso. Talvolta noi abbiamo invertito le parole proprio per rispettare un ritmo che abbiamo riconosciuto. Sì, non abbiamo creato degli iperbati dove non c'erano iperbati, cioè quella figura retorica che inverte le parole. Magari il giro sintattico italiano ovviamente è diverso da quello tedesco, e quindi dove riuscivamo magari giravamo, ma con molta delicatezza. Poi io devo dire che noi su questa cosa andavamo abbastanza a nozze, nel senso che per me la lingua è uno strumento musicale, quindi non c'è nulla di più divertente e sensato di organizzare il ritmo. Io mi ricordo molto bene, noi potevamo discutere su una singola parola. Faccio un esempio: non è che il titolo Nell'immensità per Insvite è venuto in un attimo, quanti ce ne saranno stati insieme a questa opzione? Diversi, adesso non ricordo. Per cui ogni sillaba, ogni parola, ogni posizione di parola, ogni sequenza vocalica. Prima guardavo che abbiamo tradotto Betelblume con Ninnoli Fiori perché la I e la O riproponessero alcune, cioè ci sono una serie di ricerche che vanno a fondo delle somiglianze sonore anche, no? E quindi sì penso che tu dica bene, Sepp. E a questo proposito, anche per non approfittare troppo della vostra pazienza, volevamo concludere l'aspetto della lettura con una poesia diversa. Questo libro contiene 39 componimenti brevi e 2 poemetti. I poemetti sono naturalmente più narrativi, perché avendo un respiro su più pagine sono più narrativi, quindi hanno un andamento diverso. Il poemetto che vi proponiamo adesso, per cui se mi pare leggeremo la prima delle due parti in tedesco, siccome è un po' lungo se no, e poi ve lo facciamo sentire tutto in italiano. Si chiama, forse i presenti, Disperato erotico stomp. Sottotitolo, tra parentesi in corsivo, Remember Lucio D. Quindi l'appartenenza culturale di Sepp Mal, no? Se serve un indizio linguistico anche a documentare dove siamo e che cosa può succedere in una poesia di lingua tedesca di questo genere, ecco, è già nel titolo, ma Sepp, a te la lettura. Disperato erotico stomp. Mein erstes Bett sei ein Strohsack gewesen. Ich lag da kaum der Mutter entwöhnt, mein letztes, wer weiß, vielleicht wird's ein Seesack sein oder ein Brett aus weichem Fichtenholz, Föhren, das einen Leichter trägt, ein Strohsack aus knisterndem Hafer von den Äckern hoch über Meer. Und wenn ich mich umdrehe, nachts klang's wie das Rauschen des Sensenplatz, ein lichtes, windiges Rascheln, das durch das Dickicht der Halme fährt. Im Traumbild siehst du den Schnitter vorwärts ziehen, spürst, wie jeder Stängel sich wehrt und trotzdem fällt, so als wäre die Vergeblichkeit ihm eingeschrieben. Mein erstes Bett kam aus den Dreschmaschinen im staubigen Stadel, kroch unter Husten und Spucken zur Welt, und Goldgelb hat mit Gold nichts gemein, außer ein paar Buchstaben und eine Ahnung von Farbe. Vielleicht aus diesem Stroh wuchs ich heraus. Aus keinem anderen. Das biegste und stach, das weit ab nach Himmel roch und leerer Felder Einsamkeit. Ich sprang über die Kartoffelfeuer im Herbst, spähte den verwegenen Raben nach, die ihre Kreise zogen über Wälder und Gärten und über den Rauch in den Äckern, in welchem Glutfunken glommen, und eine erste Ahnung von Schnee. Hast du eine Ahnung, wie es am Morgen in Schlafsälen riecht, von Instituten und Knabenseminaren mit 30 Betten und scharfen Befehlen? Und reden wir nicht von den Wünschen, die jeder schwitzend mit sich trug, den Sehnsüchten nach weiter Ferne, einem größeren Leben, nach einem richtigen Bologna-Trikot, blau gestreift und rot, oder auch nur nach einem Strohsack zu Hause. Die besseren von uns trugen gekaufte Pyjamas aus weichem Frottee und Jersey-Tragekomfort, aber auch in ihren Matratzen schliefen die heißen Tränen von 11-Jährigen oder 12-Jährigen verwischten Wünsche, aber doch waren es richtige Matratzen, die auf der Unterfederung schaukelten wie Boote im unendlichen Meer. Wir waren allesamt Helden. Auf dem staubigen Bolzplatz oder unter der Schiefertafel kannten wir keinen Schmerz. Zu Hause aber hielt man den Atem an, wenn Vater saß und seinen Namen schrieb auf diesen Zeugnissen, Formularen am Küchentisch hinter den rasch beiseite geschobenen Töpfen, wenn er seine Buchstaben hinstellte in dieses leer gebliebene Feld, diese fremden Ackerfurchen, wo wir das Bleistiftkreuzchen gemacht. Mach doch, lieber Gott, beteten wir leise für uns, und irgendwann war doch der erste Buchstabe gesetzt. Dieses A, das etwas schief aus der Wäsche lugt, aber es stand auf zwei Beinen, wackelig zwar, aber am richtigen Ort. Und schließlich fanden sich alle zusammen, wie sich's gehört, eine Truppe, die sich verloren und wieder gefunden, hielten sich fest aneinander an diesen drehenden Schnörkeln und Schlingen. Okay. Basta. Ja. Okay. Bene. In italiano ve la facciamo sentire fino in fondo per compiutezza. Il mio primo letto era forse un pagliericcio, ci dormivo appena svezzato dal seno. Il mio ultimo, chissà, forse sarà un sacco da marinaio o una tavola di morbido legno d'abete, pino, che più lieve ti sostiene. Un pagliericcio di avena scrocchiante, dei campi alti sopra il mare, e quando mi giravo di notte sembrava il fruscio della falce, un frusciare chiaro, ventoso, che passa nel folto dei culmi. In sogno vedi il mietitore avanzare, senti come ogni stelo si oppone e comunque cade, quasi avesse inscritta l'inanità. Il mio primo letto venne dalle Tre Beatrici nel fienile polveroso, strisciando verso il mondo fra tosse e sputi, e il dorato con l'oro non ha nulla in comune, a parte qualche lettera e forse una vaga idea di colore. Da questa paglia io vengo, da nessun'altra, che pungeva e pizzicava, ma da lontano odorava di cielo e di campi vuoti, solitudine. Saltavo sul falò di resti d'orto in autunno, seguivo con gli occhi i corvi temerari che tracciavano i loro cerchi su boschi e giardini e sopra il fumo nei campi dove ardevano scintille di brace e un primo sentore di neve. Hai un'idea dell'odore al mattino nelle camerate di istituti e collegi per ragazzi con 30 letti e comandi bruschi, per non parlare dei desideri che ognuno sudando si portava addosso? Le nostalgie di luoghi lontanissimi, di una vita più grande, di una vera maglia del Bologna a righe rosse e blu, o anche solo di un pagliericcio a casa. I più fortunati fra noi indossavano pigiami comprati, di morbida spugna e confortevole jersey, ma anche loro, ma anche nei loro materassi, dormivano le calde lacrime degli 11 anni o 12. I loro desideri sbiaditi, eppure erano veri materassi, quelli che ondeggiavano sulle reti come barche nel mare infinito. Eravamo tutti quanti eroi sui campetti polverosi o sotto le lavagne d'Ardesia. Non sapevamo cosa fosse il dolore. A casa, però, si tratteneva il fiato quando papà sedeva e scriveva il suo nome su quelle pagelle, formulari, al tavolo della cucina, dietro le pentole scostate di fretta. Quando lui apponeva le sue lettere in quel campo rimasto vuoto, quei solchi estranei, dove avevamo disegnato la crocetta matita, qui fa buon Dio, pregavamo fra noi sottovoce, e a un certo punto davvero la prima lettera era fatta, quella A che stava lì un po' sbilenca, ma intanto c'era, su due gambe, malferma sì, ma al posto giusto. E alla fine si trovavano tutte insieme, come si conviene, una truppa che si è smarrita e poi ritrovata, si tenevano salde l'una all'altra, quei roteanti lacci e svolazzi. Si aggrappavano alla terra come culmi negli strappi della tempesta e noi tiravamo un sospiro. E la sera a letto, da soli con noi stessi, sospesi tra veglia e sogno, tutto a un tratto una certezza sonnambula, che era l'alcol a farsi strada nella gola di papà e nella sua mano, fino alla cartuccia d'inchiostro nella punta della penna, e le lettere faceva barcollare, vacillare, chi se no, e con questo sapere giù nel sogno, dove altre tempeste ci aspettavano, più remoti letti dopo. Dopo. Mi fermerei qui. Questa è la prima parte. La seconda ve la lasciamo leggere se dovessi interessarvi, perché c'è un salto temporale. Ecco. Sonia. Passando in rassegna vari tipi di giacigli, un pagliericcio, materassi d'hotel, materassi nei convitti, materassi marcescenti, tavole. L'io lirico ci fa un excursus quasi di una vita, ci racconta della nascita, il giaciglio in cui nasce, un pagliericcio, ci parla dell'infanzia, dei ricordi d'infanzia, poi dell'adolescenza, il convitto, e primi approcci amorosi, un primo incontro sessuale proprio, fino all'età adulta, e c'è un continuo riferimento al mare, quindi c'è un alternarsi di campi, di spighe e di grano, e poi questa analogia con il mare. E io vorrei chiederti, perché è chiaro che l'abbiamo scorto, però io almeno forse non del tutto capito, e me ne sono resa conto adesso, appunto, che ho anche letto e riletto questo meraviglioso poemetto, e io mi sono fatta una mia idea: i campi, la materia, la terra e poi l'acqua, però mi piacerebbe davvero sapere da te che cosa c'è dietro questi continui riferimenti del il mare, la distesa di mare, il materasso che diventa una barca in mezzo al mare, e poi alla fine quel meraviglioso Zeman, che è un mietitore, però anche l'assonanza con Zeman, marinaio, e che ci ha fatto penare non poco per trovare una corrispondenza, perché chiaramente noi non potevamo giocare su questa assonanza. Sai, quando ho incominciato con questa poesia, mi sono detto adesso scrivi una poesia su tutti i materassi della tua vita. Così ho cominciato. Il primo materasso e poi naturalmente si pensa all'ultimo materasso. Ad un certo punto poi è venuto l'erotico e la canzone di Lucio Dalla e proprio i riferimenti a Dalla hanno fatto che c'era questa cosa col mare. Proprio il mare viene dalle canzoni di Lucio Dalla. Proprio il mare, non so, forse non ha niente a che fare con la cosa che sono cresciuto vicino ad un lago, il lago di Colombe Nostra, non ha niente da fare con questo, ma proprio sono le immagini delle canzoni di Lucio Dalla che qui vengono sempre in questa poesia. Ho pensato infatti che potesse essere una suggestione che veniva da un'altra canzone di Lucio Dalla, della quale non ricordo il titolo, ma com'è profondo. Ah, è proprio il titolo, non è una data? No, com'è profondo il mare. È vero? Vi ringrazio di questo. Sapete, io quello che avevo poi da commentare sulla tua poesia l'ho scritto in una postfazione che potranno leggere le persone che vorranno leggere queste poesie. Però vorrei solo dire un'ultima cosa per non approfittare troppo della vostra pazienza. Abbiamo parlato di poesie del ricordo, del tempo che scorre, degli spazi, dell'infanzia, della realtà rurale, dei paesi, dei luoghi d'origine, della natura. C'è tutto all'insegna di una certa, non so se la parola è chiara, di una certa creaturalità, cioè di una condivisione, di una comunione con tutti gli esseri, no? Però qua e là viene fuori anche il male. O meglio, viene fuori il dolore in un'altra forma. C'è una poesia su Lampedusa che è notevolissima, schiacciata tra i due poemetti lì, ma che ha una grande forza, se volete la facciamo sentire, e c'è un piccolo ciclo su Auschwitz. No? Per cui c'è questa, cioè c'è un'apertura al mondo, ecco. Non è una poesia privatistica o intimistica o soltanto intimistica, è una poesia che esplora sicuramente la dimensione del ricordo, del passato, di ciò che passa e di ciò che può restare e si può salvare. Ma c'è una poesia che si apre al mondo, però episodica, no? Piuttosto. Qual è il tuo rapporto in questo senso con il Weltschmerz, sozusagen? Sai, tu hai già accennato al mondo fuori, no? Il poeta non vive proprio nella sua camerina e non vede niente. Der Dichter ist immer auch ein Bürger, vorrei dire. Quando si scrive, o quando scrivo io, la finestra al mondo è sempre aperta. E può entrare possono entrare tutte le cose che sono fuori. E questa è anche una cosa importante, non racchiudermi dentro la mia infanzia, dentro i miei pensieri solitari, ma anche aprire proprio verso quello che succede, che è fuori, la politica, eccetera, eccetera. Ecco, sì, Sepp dice il poeta è anche un cittadino e io proporrei di concludere leggendo due poesie, una alla quale facevi riferimento tu davanti a Lampedusa e l'altra, della quale non ricordo il titolo, ricordo l'immagine di una colomba o di una rondine. Allora intanto io leggo davanti a Lampedusa e tu leggi. Ok. Pagina 72. Davanti a Lampedusa. In televisione il mare era come di pietra. La barca impigliata nel rampicante, nel filo spinato, e nelle immagini irreversibili, i corpi su ampie e desolate distese. Abbiamo alzato il volume fino allo scroscio, all'urlo senza suono che tutto sovrasta, anche la voce con cui si grida mamma. Vani desideri. In televisione il mare è un sussulto di pelle, una casa, un letto, per ognuno dai capelli d'alga. Vor Lampedusa. Im Fernsehen war das Meer wie aus Stein. Im Schlinggewächs verheddert das Boot im Filo Spinato. Und in den Kippbildern die Körper auf weiten verlassenen Ebenen. Wir drehen den Ton auf ins Rauschen, ins lautlose Brüllen, das alles übertönt. Auch die Stimme, in der man nach seiner Mutter schreit. Vergebliche Wünsche. Im Fernsehen ist das Meer eine zuckende Haut, ein Haus, ein Bett für alle mit eigenem Haar. Concludiamo con Polnische Dörfer Nummer 1. Das ist auf Seite 26. Ich werde das jetzt zuerst auf Deutsch lesen und dann auf Italienisch. Sì, Polnische Dörfer è un ciclo di sei poesie che parla non proprio di Auschwitz, ma dello spettatore che va ad Auschwitz. Was bleibt, sind Bilder. Der bröckelnde Schornstein im fremden Himmel, die Berge von Schuhen, Sonnenuntergänge. In den polnischen Dörfern bellen die Schäferhunde am Sonntagnachmittag wie hier. Hoch, hoch flog der Rauch der Kamine an windstillen Tagen. Kannst du eine junge Schwalbe ins Feuer halten, ins Offene? An ihren zuckenden Flügeln und zusehen, wie die Flamme sie frisst. Villaggi polacchi. A restare sono le immagini, il camino che si sgretola nel cielo straniero, le montagne di scarpe, tramonti. Nei villaggi polacchi i pastori tedeschi abbaiano la domenica pomeriggio come qui. Alto, alto si levava il fumo dai camini nei giorni senza vento. Riesci forse a tenere per le ali frementi una giovane rondine sul fuoco crepitante guardandola mentre le fiamme la divorano? Grazie Sepp, grazie Sonia Sulzer, grazie a voi di averci ascoltati. Speriamo di avervi dato un buon assaggio di questo libro che è piccolino, ma ripeto, credo importante dal punto di vista della piccola storia della letteratura sudtirolese e dei suoi scambi interlinguistici. E sì, devo dire anche con un certo imbarazzo, noi non abbiamo mosso una libreria, ce ne siamo anche dimenticati a dire il vero. Abbiamo un po' di copie qui per chi fosse interessato ad averle, non abbiamo molto resto da dare, qualcosa abbiamo, però insomma non ci siamo, siamo un po' disorganizzati, abbiate pazienza, però faremo il possibile, se vi interessa faremo il possibile per venirvi incontro. Grazie ancora, grazie dell'ospitalità alla biblioteca, Alessia, e buona serata a tutte e a tutti.